Roma Trastevere, 19 dicembre 1973. Care Eleuterio, la casa che ci ha visto diventare donne felici, mia sorellina e me, oggi ci vede donne deluse e amareggiate. Mia sorellina, che è leggermente alterata, sposta da una stanza all'altra la cassapanca, quella con i libri dentro per rilassarsi. Dice che se dentro ci fossi tu, riuscirebbe a portarla fino al greto del Tevere. Chissà perché. La radio trasmette musica per organo. E io penso che l'organo è una zampogna che ha scelto la carriera ecclesiastica. Penso anche che sei un pazzo e un irresponsabile. Incrementare le zone depresse è un dovere. Sempre tuo. Roma Parioli, 20 dicembre 1973. Incontenibile sempre mia. La casa che vi ha vista diventare donne, te e la tua sorellina, ci vede male. Forse tu, con un certo sforzo e con l'aiuto delle gonne, puoi creare l'illusione, ma tua sorella assolutamente no. I tralicci con sottana e cappello restano tralicci con sottana e cappello. Le zone depresse vanno incrementate, ma gli stanziamenti di capitale vanno decisi e votati. Eleuterio. Roma Trastevere, 21 dicembre 1973. Care Eleuterio, randagatto, è una specie di aristogatto al contrario, un randagio solo in cerca di affetto che non ha. Ieri sera hanno fatto i fuochi per la festa rionale e io penso che i fuochi artificiali sono luci raccomandate che con la spintarella tentano di diventare stelle. Penso anche che le zone depresse dovranno essere sempre più incrementate, sempre tua. Roma Parioli, 22 dicembre 1973. Indescrivibile sempre mia. Sento la tua mancanza. In ufficio ascolto discorsi seri. La televisione parla di cose serissime. I portinai affrontano argomenti di tutto rispetto, quali l'energia elettrica, il riscaldamento. E io senza i tuoi discorsi inutili e cretini impazzisco. Un uomo che lavora ha anche bisogno di non pensare qualche volta. Torna. Anche perché il gatto sta male. Da due giorni rifiuta la scatoletta di carne e miagola disperatamente Eleuterio. Poi scritto. La portinaia ha curato il gatto. Adesso sta bene e mangia. Gli ha aperto le scatolette di carne. Roma Parioli, 23 dicembre 1973. Care Eleuterio, migione! Sono di nuovo qui nel tuo studio, dove tu non vuoi che io entri, ma dove sono entrata perché tu non ci sei. Ma siccome ci stai sempre, io ti ci trovo anche quando non ci sei, come adesso. Ho levato i cuscini da sotto i vasi da fiori e li ho rimessi sul dondolo nella veranda. E io penso che il dondolo è il pendolo del tempo ozioso che passiamo seduti. Penso anche alla nostra ultima lite che ricordo perfettamente. Io stavo leggendo e tu hai cominciato a gridare come un pazzo. Ma che diavolo è successo nella stanza da bagno? Sei andato in bagno, Eleuterio? No, sono andato sul balcone. Per me uno che dovendo andare in bagno va sul balcone è matto. E poi se sei andato sul balcone, come fai a sapere che cosa è successo in bagno? Senti, io cerco di essere calmo, ma tu non mi devi provocare. Smettila di fare discorsi cretini. Voglio sapere che è successo nel bagno. Ti riferisci al lampadario di Boemia, ai tapeti persiani, al picassino che ci ho fatto mettere? Esatto, ma che accidente ti è venuto in mente di mettere tutta quella roba nella stanza da bagno? Rispetto al resto della casa, il bagno va considerato zona depressa e io ho deciso di migliorare le sue condizioni. E uno che si deve fare il bagno, dove va? Dal momento che hai trasformato la vasca in fioriera. C'è sempre il bagno di servizio. Dove la vasca non c'è, c'è la doccia. E non si può trasformare in fioriera una doccia. Si può trasformare una moglie in una cara salma. Il bagno resta com'è per un picassino che ci ho messo. A proposito, ma dove l'hai preso quel picassino? L'ho comprato di seconda mano vendendo di seconda mano il tuo impianto stereofonico, i tuoi fucili da caccia e i due orologi tuoi. Non è giusto che ci siano panoplie in salotto, impianti stereofonici in soggiorno, orologi inglesi in ingresso e in bagno nulla. Va bene. Se al posto della panoplia ci metti la testa imbalsamata di tua sorella, mi sta bene. Eleuterio, smettila con mia sorella, povera ragazza. Ma perché non dici povera Matusalemme? Fai in modo che io possa andare in bagno e fare tutto quello che normalmente si fa in bagno. Se no vado nella casa che ti vide bambina e industrializzo quella zona depressa dove c'è tua sorella, saponificandola. E in quanto a te... Eleuterio, posa il tavolo del gioco. In quanto a te, con procedimento inverso, ti rendo effettivamente depressa e non a zone, posa. Totalmente. Eleuterio, posa quel tavolo, barba blu, posa quel tavolo, torna alla mia sorella. Anzi, ricordo tutto perfettamente, ma quando rientrerai farò finta di niente. Ciao. Ciao, Eleuterio, micione. Dice la mia sorellina che sarebbe il caso di ristrutturare...